luogo, li poso, non so più dove cazzo le mette. C'è, ma c'è le cordicelle. Un'altra cosa che odio, cioè non so, potrei... sono brutti, però secondo me sono comodissimi. Non solo sono brutti, ma li posa per chinottica. Allora, cioè, quello è risolutivo, caro mio. Bertinotti. Che stai ti guardando così? Per chi? Per me. Perché mai vorrei essere, cioè, un ex sindacalista che arrota la R come me, peraltro. Li odiavo già, non so perché, mi danno un'immagine di... perché obiettivamente la mia autorappresentazione di me stesso nella testa non contempla lo schiavo qui. Cioè. Io mi autorappresento. Voi pensa come si autorappresenta, gli fanno fuori cose ancora più ridicole della mia. Io però mi autorappresento come una persona che non ha bisogno di supporti di alcun tipo. Non so, tipo, non posso mangiarmi neanche a camminare con un bastone. E uno dice, ma il boxer sta camminando, era cieco come te, anzi, un po' peggio di te, ma tu comunque ti avvii, tu quando parlo con me stesso mi dico, tu però mi avvii a essere tipo boxer. Io invece non è tipo allora l'occhiale così, l'occhiale non so, l'occhiale deve stare in tasca, non può star fuori, cazzo, non lo so. Lo so, fa parte della mia autorappresentazione. La parete di Lascaux. Vedo qualcuno che annuisce, vuol dire. Non ho parlato con. Allora, per riassumere, più o meno, sto qua? Sto qua, andiamo avanti. Allora, per riassumere, per dire qualcosa, per ripetere brevemente quello che ho detto le volte scorse. Abbiamo enucleato due modalità differenti della comunicazione e dell'espressione all'interno della storia culturale della specie umana, e sono la parola e l'immagine. Non possiamo essere sicuri di che ci sia una priorità cronologica o temporale tra le due, però credo di aver esposto delle tesi che configurano una maggiore centralità della parola nella definizione antropologica del divenire umano. Insomma. L'utilizzo, la produzione e la fruizione di immagini, per quanto antiche possano essere, anche se vogliamo considerarle coeve o forse addirittura precedenti alla parola, la produzione e la produzione di immagini non hanno lo stesso valore strategico per la costruzione dell'essere umano che ha la parola. In entrambi i casi, però, entrambi queste modalità comunicative presupponevano in qualche maniera una presenza, una compresenza, una contemporaneità o una contemporaneità temporale. la parola, o una contiguità spaziale nel caso dell'immagine, tra il fruitore, tra il produttore del messaggio e il ricevitore del messaggio. Ed è quella che ho proposto di chiamare l'altra volta comunicazione sintagmatica, o dopo che si è Loretta abbiamo deciso di chiamarla comunicazione in presenza. In presenza o dell'emittente di messaggio vocale, messaggio sonoro, o in presenza dell'originale dell'immagine, cioè del luogo in cui l'immagine è stata presentata. Il fatto che il messaggio, il fatto che la comunicazione verbale, essendo affidata ad un produttore umano di suoni, sia mobile, può, diciamo, seguire la mobilità dell'essere umano, insomma, non la rende meno vincolata. È vero che è mobile, perché sia l'emittente che il ricevitore, sia il parlante che l'ascoltatore si possono spostare nello spazio, quindi anche nel tempo, ma devono essere presenti entrambi perché si abbia il messaggio, perché si abbia la comunicazione, perché si abbia l'atto di comunicazione. Nel caso dell'immagine l'autore non è necessario che sia presente, ma il fruitore dell'immagine si deve recare nel luogo in cui l'immagine è stata prodotta, perché non c'è modo di spostare questo messaggio. Allora, in entrambi i casi si può dire che la comunicazione che si realizza con questa modalità è una comunicazione in presenza. Quindi né l'immagine né la parola da un certo punto di vista possono essere trasportate, neanche la parola, perché il trasporto della parola implica comunque il trasporto dello stesso emittente della parola, cioè la parola non si può staccare dal suo emittente. L'emittente si può spostare, perché io posso spostare, però nessuno può ascoltare o può comprendere o può entrare in contatto con ciò che io dico se non ci sono io, se non c'è chi parla. Tutta la storia della comunicazione umana è un tentativo di cambiare, cioè di trasformare questa comunicazione sintagmatica o in presenza in una comunicazione paradigmatica o in assenza. Cioè, si tratta, nel corso della storia dell'uomo sono comparsi diversi dispositivi che tendevano a staccare, a separare la possibilità di comunicazione dalla presenza del creatore della comunicazione stessa, al caso del verbale, o del supporto, di un supporto fisso del prodotto della comunicazione o dell'espressione sonica. Perché ho proposto di utilizzare le due categorie sussuriane di sintagma e paradigma, identificando però in questo contesto il loro significato in presenza contemporanea degli elementi che fanno parte, come nel sintagma, o presupposizione concettuale ma non presenza fisico spazio-temporale come nel paradigma, però possiamo chiamare anche comunicazione in presenza, comunicazione in assenza, forse si evitano diversi equivoci che la domanda di Loretta dell'altra volta ha esplicitato sul fatto di chiamarsi sintagmatica e paradigmatica. È ovvio che c'è un presupposto di conoscenza paradigmatica anche nella comunicazione orale, perché solo il sintagma di quella lingua, ma anche i paradigmi di quella lingua. Ma io usavo il termine sintagmatico e paradigmatico in senso scarlatto, comunque usavo, possiamo dire, in presenza e in assenza, che non cambia. Paradossalmente, la prima importante tecnica di svincolamento della comunicazione dalla presenza, cioè la scrittura, è una tecnica che compare nel momento in cui l'esperienza del genere umano si sta spostando da una condizione nomadica, quindi di spostamento continuo, che non vuol dire spostamento irregolare, il nomade non va per i cazzi suoi, no? Nel genere ha dei percorsi vagamente chiusi, insomma, ritorna, se non proprio nel punto di partenza, nel punto molto simile a quello che ho detto, le sue peregrinazioni seguono i cicli naturali e quindi fanno parte relativamente di un circolo chiuso, perché le stagioni si ripetono l'una con l'altra. Che spiega fra l'altro la presenza di un paradigma circolare del tempo in quasi tutte le culture orali. Nessuna cultura che non abbia la scrittura è stata mai in grado di elaborare una concezione lineare, perché tutti hanno questa cifra perché ovviamente è relativa alla loro esperienza di dipendenza da condizioni naturali, e le condizioni naturali, come sappiamo, tendono a ripetersi ciclicamente. Però attira la vostra attenzione su questo, chiamiamolo paradosso, su questa insomma, stranezza un po', che la necessità della contemporaneità dell'emittente e del ricevente nella comunicazione in presenza è caratteristica di un'epoca nella quale l'essere umano è comunque nomade, nel quale comunque quindi si sposta, un'epoca nella quale l'essere umano è comunque più mobile delle epoche successive. La scrittura, che per certi versi rende più mobile la comunicazione, perché consente una comunicazione anche in assenza dell'interlocutore, e quindi amplia ed estende nello spazio e nel tempo la portata del messaggio vocale, quando il messaggio vocale diventa scritto, la sua portata aumenta nello spazio e nel tempo. Lo stesso però accade quando l'esperienza umana è passata da una fase nomadica a una fase stanziale, cioè quando l'essere umano, non che non si sposta più, ma la sua esperienza è diventata, diciamo, paradigmaticamente o come condizioni generali, stanziale, cioè con l'avvento dell'agricoltura. È vero che passano all'incirca 4.000 anni perlomeno da quando sono documentati le prime esperienze di agricoltura, cioè di coltivazione delle piante e di allevamento degli animali. L'allevamento degli animali forse è anche un po' precedente, perché ovviamente ci sono molte società nomadi che praticano la pastorizia, che praticavano probabilmente anche in tempi passati, però la pastorizia, l'utilizzo dei prodotti di alcune specie animali, insomma, per esempio il latte, eccetera, nella fase nomade ha un significato diverso da quello della fase stanziale. E quindi, diciamo, il cambiamento più importante ovviamente è la scoperta che alcune piante che si può indirizzare e si può in qualche maniera controllare il processo riproduttivo di una serie di specie vegetali, selezionando in qualche maniera delle varietà più o meno favorevoli di specie, diciamo, vegetali, e quindi aumentare e poi concentrandone la produzione su uno spazio più, diciamo, limitato, coltivando le piante. La coltivazione delle piante apporta una serie di trasformazioni anche nei modelli e nelle modalità della pastorizia, perché poi quasi sempre con, cioè, sono cose collegate, cioè si prescelgono per esempio anche delle zone per pascolare per esempio gli ovini e i bovini che presentino delle caratteristiche delle specie vegetali spontanee più favorevoli per il cibo, di cui so, c'è una serie di cose che cambiano, non so, però diciamo la questione fondamentale è quella dell'agricoltura. L'agricoltura nasce fra i 7.000 e i 9.000 anni prima di Cristo, la scrittura nasce all'incirca 3.000 anni prima di Cristo, contemporaneamente nelle aree mesopotamica e cinese, alcune zone della Cina, e quindi passano circa almeno 4 millenni, se non di più, tra la comparsa dell'agricoltura e la comparsa della scrittura. Però la comparsa della scrittura è quella che consente all'agricoltura di diventare rapidamente il modo di produzione dominante nella storia dell'umanità. Quindi la comparsa della scrittura ha una indubbia funzione di stabilizzazione nei confronti dell'agricoltura. Quindi è, dicevo, però è un paradosso che nel momento in cui l'uomo diventa stanziale, ma forse non è tanto un paradosso, forse, perché è proprio nel momento in cui l'uomo diventa stanziale e quindi non che perde, ma insomma altera, trasforma, modifica le modalità del suo rapporto con la natura e quindi diventa, virgolette, meno dipendente o diventa dipendente dalla natura in maniera diversa da quella, come dire, precedente. E quindi quando diminuisce drasticamente la sua mobilità territoriale in rapporto al territorio, probabilmente proprio per questo ha bisogno, questa è una concezione un po' del cazzo che vi sto dicendo, cioè finalistica, non è così, ovviamente non c'è nessun progetto, nessuna vera finalizzazione, a posteriori noi ricostruiamo e diciamo ha bisogno, è un uso molto traslato che sto facendo del termine, avere bisogno, l'uomo non ha bisogno di niente, si trova a dover fare delle cose, certi comportamenti logica evolutiva si dimostrano vincenti più di altri e quindi poi si trasmettono sia dal punto di vista dei caratteri fisici a volte che anche da quelli culturali. Quindi ha bisogno di, va detto così. Ma il fatto che l'uomo nomade si è diventato stanziale è dovuto a una competenza tecnica. È dovuto a una conoscenza profonda, abbastanza profonda, maturata nel corso della fase nomade, di alcune delle specie vegetali che sono le più produttive nelle caglie primarie. Quando tu sei dentro un certo territorio, raccogli una certa quantità di bacche, i cibi di quelle, eccetera. Quando scopri qualche bacca che per qualche strana ragione, o qualche frutto, che per qualche strana ragione cresce più in qualche zona, no? Cresce in maniera più rigogliosa che in altre, probabilmente hai la tentazione di stare fermo più a lungo in quel posto piuttosto che in altri, quando per caso trovi questo genere di cose. Quindi da un lato c'è questa, e quindi man mano che tu stai fermo in quel posto, cominci a, virgolette, studiare, guardi meglio la pianta, capisci cosa fai, eccetera, eccetera. In realtà tutto questo spiega fino a un certo punto, perché? Perché l'agricoltura in realtà è relativa in tutti i casi, cioè le specie più, a parte gli ortaggi, insomma il grano, che è quello che poi a poco sì, probabilmente fino dall'inizio, in alcune aree è il grano, in altre è il riso, e sono tutte e due, diciamo, graminacee o cereali, sono piante che hanno bisogno di un trattamento lungo prima di essere commestibili. Non è, sì, no, per crescere quello, certo, ma anche dopo, poi il grano non è che tu stai mani la figa di grano, se non si pensa a tutte le città più grandi sulla, ma ovviamente, cioè, allora non è pensabile, l'agricoltura non avrebbe mai potuto nascere in Australia, paese dal clima largamente secco, con poche precipitazioni, con poca acqua, è, se non c'è un intervento umano, ora si può fare, ma nel corso dei 30.000 anni che gli aborigeni australiani, 30-40.000 che hanno vissuto in quella terra, nessuno li ha mai avuto neanche in mente, perché non c'erano le condizioni. L'agricoltura nasce in Mesopotamia, nella Anatolia, in alcune, diciamo, regioni della Cina, nei baci in Egitto, nelle valli di grandi fiumi a regime alluvionale, cioè fiumi che più o meno, il Nilo più di altri, ma anche il Tigri e l'Eufrate e anche i fiumi della Anatolia, straripano d'estate, lasciano in qualche maniera una sorta di sedimento, poi si ritirano, rendono dall'autunno in poi quelle terre possono essere diciamo coltivabili, anche altre terre lo sono, ma diciamo l'invenzione, l'idea si dirà ma facciamo crescere questa roba. Allora però la domanda che poneva Roberta, quindi è chiaro che delle tecniche già ci sono, le tecniche sono probabilmente delle trasformazioni, delle applicazioni di conoscenze che oggi noi chiameremo scientifiche, cioè di tipo botanico, cioè come solo? Beh sì, di questo tipo qua, e poi dopo, perché altre c'erano già. Allora, tanto per essere chiari, è possibile ipotizzare che una serie di interventi sulla trasformazione di certe piante fossero precedenti alla nascita dell'agricoltura. Probabilmente l'uomo macinava il riso o il grano o certe varietà selvatiche di queste piante, lo mescolava con acqua e cuoceva sul fuoco delle robe che noi potremmo chiamare vagamente focaccette, diciamo, prima che ci fosse l'agricoltura. Cioè, una parte delle tecniche che poi sarebbero diventate tecniche di trasformazione sono già nell'epoca nomade. Però anche in epoca nomade, cioè al di là della cosa di cibarsi, anche per il fatto di, cioè se devo appuntire una pietra, ci devo stare ad appuntirla. Certo, quindi, ma è ovvio se che... Se devo appuntire 100 pietre, questo è il dubbio, devo stare 10 giorni ad appuntire 100 pietre. Certo, e hai già una tecnica, quella è chiaro che è una tecnica. Sì, tecnica. Però, però per decine di migliaia di anni, se non 200.000 anni, le uniche tecniche sono state tecniche di scheggiatura della pietra, e queste tecniche non hanno portato ad altre trasformazioni differenti, tipo per esempio il pensare di poter coltivare delle piante. Da un certo punto in poi, probabilmente un accumularsi di esperienze, più sicuramente una serie di casi fortuiti, fanno sì che alcune di queste piante, alcune di quelle che però non erano né le bacche né i frutti, guarda caso, erano quelle che già richiedevano fin dall'inizio una qualche lavorazione tecnica precedente, che sicuramente avviene probabilmente embrionalmente durante l'epoca nomade. Poi quando lui dice, ragazzi, però viene buona questa faccenda, come uno che va ricco e mangia la focaccia con il formaggio, dice, cazzo che buono questo formaggio, non ne posso fare a meno. E questi dice, ah, ci vogliamo. E allora a qualcuno viene in mente che probabilmente selezionare da bene, adesso mi fermo qua e do una mano, invece di aspettare che questa cazzo di pianta si diffonda su una superficie di centinaia di ettari, io devo scartinare come un disperato per trovare la piantina di cose, dice no, me la. Gli do una mano io, mi procuro dei semi, la metto qua, quindi mi fermo in un posto e in un'area di terreno più, diciamo, limitata di quella in cui la normale diffusione totalmente casuale, stocastica, randomizzata del seme naturale. No, no, lo faccio concentrato, e da qui nasce l'agricoltura, nasce l'idea di... E poi nasce l'agricoltura, quando fai questa cosa ti rendi conto che puoi, attraverso delle molto semplici ma complicate già per l'epoca, tecniche di ibridazione e di selezione, quello che oggi si fa con le biotecnologie, con l'intervento sul DNA, l'uomo l'ha sempre fatto, non è che c'è, cioè, anche tutta questa insistenza di tanti critici, per certi versi è molto giusto criticare le biotecnologie, eccetera, però criticarle in nome di una presunta naturalità delle tecniche agricole precedenti è un po' buffo, perché non sono affatto naturali le tecniche agricole, già soltanto l'ibridazione, soltanto lo stabilire quale tra le diverse varietà selvagge di frumento è quello che è più buono, è quello che è più produttivo, quello che ti consente di avere la maggiore quantità di cibo per unità di terreno coltivato, già quello è un intervento di biotecnologia, non è un intervento diretto sul DNA, perché ancora Watson e Crick non hanno scoperto la doppia elica, però sono sempre biotecnologie, cioè fino dall'inizio non è che c'è la natura ci regala le cose, cioè l'uomo è sempre intervenuto sulla natura, ha sempre creato una dimensione attività. Ma per tornare al nostro discorso, allora dicevo, in qualche modo forse è una sorta di compensazione simbolica, diciamo, di questa nuova condizione stanziale dell'essere umano, il quale si muove meno di prima, non che non si muove più, ma si muove in maniera diversa comunque nell'epoca stanziale rispetto a quella nomade, e proprio perché ti muovi di meno l'esigenza di uno scambio tra le culture, di una messa in contatto, cosa che prima probabilmente nell'epoca nomade viene assicurata dagli spostamenti fisici degli esseri umani entro certe aree, quando questi spostamenti tendono a ridursi si sente in qualche maniera l'esigenza di avere, anche se, ripeto, probabilmente l'esigenza, cioè probabilmente l'origine della scrittura è molto più banale di come noi la concepiamo, insomma, e quindi è una origine di tipo contabile, di tipo enumerativo, quindi già di tipologico, c'è già una astrazione, perché se il numero è all'origine della scrittura vuol dire che già c'è stato, che questo già parte da un altro livello di astrazione, però come che sia nata, dopo poco tempo la scrittura si rivela adatta, anche al di là delle intenzioni di chi l'aveva promossa nelle primissime fasi, si rivela adatta per uno scambio più generale, per un'espressione più generale dei contenuti culturali di una certa, diciamo, società. Ci deve far riflettere per esempio il fatto che in molte culture, dico l'unica, ma insomma uno dei primi generi letterari che vengono fuori è il poemetto didascalico, che per esempio spiega le tecniche agricole. Se guardate nella lingua greca, in contemporanea con i poemi di Omero, con l'esposizione di una parte dell'epos, quindi della fondazione culturale della cosa greca, abbiamo le due opere di Esiodo, sono da un lato la Teogonia, certo, quindi una esposizione generale dell'origine, della nascita degli dei, ma dall'altro le opere e i giorni, che è un poemetto, un libro, diciamo, in poesia di esposizione di tecnica agricola, che ti spiega come coltivare certe cose, come allevare le api, come fare esattamente quello che farà alcuni secoli più tardi Virgilio con le orche. alle Georgiche sono cinque libri, sono prima delle Georgiche, nella traduzione latina c'è il De Re Agricola di Varrone, che è un bel trattato di tecnica agricola, insomma. Cioè, sì. Quindi rapidamente la scrittura, anche se era nata soltanto per tenere meglio il conto di certi movimenti di derrate alimentari nei grandi magazzini delle grandi monarchie o degli imperi, rapidamente la scrittura diventa uno strumento che dapprima affianca e poi a poco a poco sostituisce l'oralità nella funzione sociale primaria del tramandare l'intero corpus di conoscenze, sia tecniche sia morali, di una certa, diciamo, civiltà. E d'altra parte è stato detto autorevolmente e giustamente, per esempio, che anche l'Iliade e diciamo, l'Odissea, in particolare l'Odissea, sotto la forma del racconto di viaggi, non è altro che una enorme e sviluppata, diciamo, enciclopedia delle buone maniere del greco. L'Odissea ti spiega come il bravo greco si deve comportare nelle narrazioni, con esempi positivi e con esempi negativi. Quando Polifemo, che non è a quanto ci è dato di capire da quello che leggiamo, non è affatto l'esempio di un buon greco, di un buon comportamento, è una bella manica di stronzo, come ci viene descritto nell'Odissea, e si comporta esattamente al contrario di come ogni buon greco si deve comportare, perché quando arriva Ulisse non gli chiede chi è, cioè non lo nutre e non lo sfama, ma per prima cosa gli chiede chi è, da dove viene e che cazzo ci fa lì in casa sua. Queste sono le tre domande fondamentali che gli fa, cosa che un greco non deve mai fare. Quando Ulisse sbarca in condizioni neanche tanto brillanti, cioè nudo come un verme, puzzolente, coperto di alghe, sulla spiaggia dove gioca questa povera anima della figlia adolescente del re dei Feaci, Nausicaa, non si presenta neanche tanto bene. Quindi, c'è Venere che lo veste di bellezza. Lo veste di bellezza, perché non gli pare a Nausicaa, grazie al caso, quindi si deve spiegare perché Nausicaa non scappa come avrebbe dovuto fare. Come lo fare ogni fanciulla bennata di quella cultura lì, invece Nausicaa non scappa, quindi ovvio che bisognava spiegare in qualche maniera che Venere adorna, no, non è Venere, è Atena, no, Venere. È Venere. E Afrodite lo diciamo adorna. Comunque sia, non si può dire che Odisseo si presenti alla corte dei Feaci in maniera praticamente brillante, cioè no. Arriva lì nudo, disperato, eccetera, eccetera. Bene, il re dei Ceofeaci si sogna forse di chiedergli come si chiama? No, la prima cosa che fa, gli dà da mangiare, lo veste, gli dice riposati un po' che mi sembri stanchino, questa sera ci vediamo a cena nella coda e allora ci racconterai chi sei, e lì due maroni, perché ovviamente come Odisseo costruisce tutta Odissea, come tutti sapete è un flashback tra i primi 4-5 libri che sono la Telemachia, per il resto è un flashback di Odisseo che racconta quello che gli è successo alla corte dei Feaci, poi finisce di raccontare, parte e se ne torna a Itaca e fa quel bel po' di massacrino dei poveri incroci. È andata come è andata. Allora, se voi fate il confronto tra il comportamento di Polifemo e quello del re dei Feaci, che non ricordo mai come cazzo si chiama, Alcino, lo confronto sempre con Alcino, che è il capo dei proci. No, è Antino, mi pare, con la L. Antino. Mi ricordo. Adesso, il re dei Feaci. Se voi fate il confronto tra il comportamento di Polifemo e quello di Alcino, vedete bene che lì c'è un ammaestramento. Come ci si comporta con gli stranieri? Ci si comporta così. Lì si accoglie, lì si sfama, lì si nutre, lì si alloggia. Poi gli si chiede chi sei, da dove vieni, che cazzo ci fai qui? E invece Polifemo fa il contrario. Prima di chi sei, da dove vieni, che cazzo ci fai qui, mo ti chiudo dentro e magari ti mangio. Cioè, voglio dire, proprio è, come dire, Polifemo è l'inversione totale delle delle buone maniere, delle cose che deve tenere al greco. E infatti è uno stronzo, e infatti finisce male. Ti stacca Dario. Sì, perché così è, insomma, no? Io che sono... No, ho fatto la battuta per Selvaggio, perché... E lui, infatti Polifemo sta a Catania più o meno, no? Per cui lui mi guardava e diceva che sta lì. Ma ora mi sa che è morto. È morto? No, Polifemo mi sembra di sì. Hanno fatto fuori con un calcio a cazzo, vabbè. No, no, è morto, no, non muore, non muore. No, ma è morto anche dissanguato. No, no, non lo dice questo, non lo dice affatto. No, tant'è vero che... essendo ciecato, poi comunque dice vabbè, però adesso comunque adesso apro solo un piccolo spiraglio e faccio uscire le pecore le sento una a una, di voi qua non ne serviva nessuno, perché ricordi come si mettono sotto attaccati al livello delle pecore, che dovevano essere pecore grossine, perché cazzo, perché era poco di... Beh, tutto in proporzione. No, in coppa loro, no, invece no, cose che stanno lì attaccati al vello, che come se vengono urlavano di strada, cazzo li tiravano. Ma è piccolo, sì, ho capito, no, ma chiaramente non è il peso che vengono più grosse, come giustamente in relazione a... Boh, nella versione televisiva dell'Odissea, quella degli anni... E vai con la cultura di massa. No, ma è bello, abbiamo fatto vedere quella. No, no, mi rendo conto. E ci sono le pecore che sono leggermente più grandi perché sono il corrispettivo di Polifemo, certo, per cui certo. Sono domanda, come sono avranno fatto Polifemo? A fare così più grandi prima dell'era del digitale? No, perché... hanno fatto usato gli umbrelli. Hanno allevato una particolare razza di pecore grosse che... Un po' di più, ma è vecchissimo. I trucchi ci sono anche da prima dell'era. Ah, c'è poi il cielo. Sì, è vero che c'hanno quelle minigonne. Ovviamente la scena vengono già nei grandi primi piani. Hanno anni che Ulisse, sicuramente il primo piano di Ulisse, dalla faccia di Ulisse c'era, però lì faremo un po' di montagna, possiamo fare pure allora. Però nelle scene più grosse chiaramente erano bambini vestiti di storica. Chiamato Todd Browning. Todd Browning. Quindi ha portato un paio di valori genetici, piccolini, tutti piccolini. Fritz. Li ha messi sotto le pecore. Guardate che raffinata cultura cinematografica abbiamo qua dentro, Lui, Io no. Io di massa. Non generalizziamo. Ho visto anch'io la fiction dell'Odissea quando ero piccolo. E tutti l'hanno vista, io ero già grande, ma... C'era Ungaretti che leggeva prima. Specie di mummia, cioè una voce cavernicola. Una roba divertentissima. C'era Ungaretti che leggeva. Ungaretti era imbarazzante. Questa mummia di 250 anni, c'era questa voce che aveva fortissima dal profondo, era una roba... Certo, adesso c'è l'isola dei famosi, capito? Ha avuto dei grandi passaggi. In cui mi spaventavo facilmente, quando ho fatto vedere Ungaretti, cioè un paio di mesi fa. Io non so quella di Indro Montanelli. È un gigante rispetto Indro. A Indro Montanelli. Alle un uomo di stile, quando Indro Montanelli. Va bene. Facciamo una pausa. Allora, che la scrittura faccia questo genere di operazione l'abbiamo chiaro tutti più o meno, però chi vuole contestare anche queste tesi faccia pure, basta che lo sapete. Allora, siccome c'è una lunga fase della storia della civiltà nella quale esistono tecnologie per prolungare e spostare nello spazio e nel tempo la parola, ma non per fare la stessa cosa sull'immagine, da un certo punto di vista queste tecnologie rafforzano ancora di più il predominio della parola sull'immagine e fanno sì che sul piano culturale l'immagine l'immagine conservi un valore subordinato, di fatto, perché il valore comunicativo dell'immagine è quasi nullo se non è combinato con quello della parola, presente o presupposta. Se voi pensate a tutta la, alla gran parte della storia della pittura occidentale, dai prodromi del Medioevo sino ai prodromi dell'epoca moderna, la gran parte della produzione della pittura medievale è pittura sacra, e anche dopo, anche l'epoca moderna, eccetera, e la pittura sacra presuppone, sono scene della Bibbia. Se voi non avete letto la Bibbia o se non sapete cosa dice la Bibbia, è inutile che vi fa vedere una tipa con una testa mossa in mano, se non sapete che è giudita, che ha mozzato la testa ad Oloferne, che Oloferne è sto gran stronzo, generale dei Filistei, bla bla, che è Giudita, che si è fatta scopare per poi tagliare la testa, sono tutte queste robe divertenti che racconta la Bibbia, in cui c'è un sacco di sesso più di quello che si pensa. Salome è quella di San Giovanni. Non confondo, allora, Giudita, Giudita e Oloferne è come quello di Giaele e Sisera, sono due storie diverse ma simili di due assedi, di nel caso mi sembra di Giuditta sono i Filistei, nel caso di Gioele e Sisera sono i Cananei, comunque insomma ci sono delle popolazioni che sono in guerra, che hanno un fortissimo generale, un fortissimo capo, bla bla bla bla bla. Allora una donna ebrea decide di sacrificare il proprio corpo, si offre a questo generale nemico per poter evitare, dopo essersi giaciuta con lui e averne subito i, non si sa, più o meno generosi assalti sessuali, attraverso qualche tecnica particolarmente efferata lo ammazza. Nel caso di Oloferne gli taglia la testa, caso di Gioele mi sembra gli trapassa la tempia con un chiodo. È più famosa quella di Giuditta e Oloferne perché una volta che Giuditta ha tagliato la testa ad Oloferne, esce fuori dalla tenda con questa testa tagliata e gli va, eccolo qua, e va a prendere tutto a fanculo. Intanto c'erano gli ebrei che si erano messi d'accordo e che approfittano di questo sbandamento delle truppe filistee per fare un attacco in grande stile e ti fanno un po' di quella che dicevi l'altra invece chi era? Allora invece no, cosa è la storia di Salomè? È ai tempi di Gesù Cristo, questo avviene diversi secoli prima di Cristo, questa è la verità. Quando gli tagliano la testa perché Salomè, che è la figlia di Erodiade, che è l'amante di Erode. Allora, Erode è il re dei giudei, però diciamo, è quasi un re fantocco perché è sostenuto dai romani, quindi è odiato dalla popolazione. C'ha questa relazione peccaminosa con Erodiade, ma cosa ancora peggiore, concupisce la figlia di Erodiade, che è Salomè. Però non dice che la sopra, la Bibbia lo lei balla per lui. E lei balla per lui, già balla. In realtà è Erodiade che è stronza, la più stronza è lei, perché è lei che utilizza la figlia, le grazie di Salomè, per... Erode si pasce della vista delle carni generose di questa fanciulla che fa la danza dei sette veli, e alla fine le chiede, dice allora, dopo che fate questa danza di me, dimmi quello che vuoi che io te lo faccio. Siccome questo rompiscatole di Giovanni il Battista, quello che ha battezzato Gesù, predicando nel deserto, però non solo nel deserto evidentemente, perché le sue prediche si sapevano, aveva fortemente criticato i costumi sessuali di Erode e soprattutto questa Erodiade. Allora, Erodiade gli dice a Salomè, senti, quando fate il tanto, fagli vedere due tette, un po' di cosce, poi così, e quando ti chiede cosa vuoi, tu digli che vuoi che lui ammazzi Giovanni Battista, che mi ha rotto i coglioni, ma è la mamma. Gli ha rotto i coglioni alla mamma, quindi dice questo, beh, anche ad Erode, ma Erode deve essere niente, più a questa Erodiade. E allora Salome gli fa, voglio la testa del Battista, voglio che tu mi faccia, mi porti così, dimmi quello che vuoi dopo questa danza che dico che hai fatto, voglio la testa del Battista, ma no, no, no. Vabbè, poi Oscar Wilde ha scritto sopra, anche altro, insomma. Oscar Wilde ha scritto, e Strauss ha musicato, e Bersley ha dipinto. Bersley ha dipinto. Carmelo Beni l'ha girato. Chi è che ha fatto la musica, chi è, ha musicato la... la Salome di Oscar Wilde, cazzo, uno famoso, mi sembra che scavo. Va bene, comunque, la difesa, ma no, c'è anche di Gustave Moreau, la più bella, sì, Salome beh. È di Gustave Moreau. E però Berzel ha fatto tutte le illustrazioni, il libretto, cioè sono tutte le illustrazioni di Berzel. No, Berzel, allora, sinceramente, adesso mi rendo conto di essere un po', diciamo, eccessivo, ma dal punto di vista degli effetti sessuali su un giovane maschio, vi assicuro che la Salome di Gustave Moreau è 100 volte meglio di Berzel. Sì. Io, ma le prime robe che ho visto, ero veramente estraniato. Ma quella che tende, quella che dicevo prima, Salome. Qual è, professore? Le Salome più famose sono comunque della fine dell'Ottocento fino al Novecento. No. Ma quelle lì sono. Quella di Moreau e quella di Leocco. Vabbè, con tutti i veri fianchi. Che tiene tutto così. Quando quasi di Torticiano, fin da quando ero piccolo, perché avevo tutti i libri, ti garantisco che Tiziano non ha lo stesso effetto erotico di Gustave Moreau sui maschi. Si chiama in un altro modo, non si chiama sulle femmine. No, Salome tutti ne avranno, Gustave Moreau è una fatta talista. Comunque Salome è un fatto. Allora, è per questo che arriva, gli fa tagliare la testa e gliela porta, gliela fa accompagnare. Quindi sono due tagli, e poi c'è la testa che è illuminata, tipo sembra una lanterna. Quello è quello di Moreau. Questo è quello di Moreau. Sì, che sa questa roba di luce totalmente innaturale. Sì, nella testa. Però io ti garantisco che guardavo più che altro. Le cosce di Non ho mai visto l'originale. Ma neanche io l'originale, cioè l'originale, ragazzi, a 14 anni potevo andare in giro a vedere l'originale. Ehi, è il museo di Moreau, la casa museo di Moreau. Ah sì, è lì, ma non l'ho mai visto quello, neanche... Ma il posto è bellissimo. L'originale quello... l'ho visto che non l'ho fatto mai vedere. Guarda, dopo aver letto 50 testi sulla Femenina di Velázquez, la Femenina sono visto la prima volta che avevo già più di 50 anni, quindi le robe non è che puoi vederle, cioè le riproduzioni sono la cosa, sono il modo più semplice per entrare in contatto. No? Non era neanche tanto grossa. Questo solo me, di Gustave Moreau. Allora, ho divagato come sempre. Allora, l'Ottocento è il secolo nel quale, dopo l'invenzione della scrittura alfabetica e della stampa, l'Ottocento è il secolo nel quale vengono inventate delle tecnologie che consentono di fare con le immagini delle trasformazioni analoghe a quelle che le tecnologie della scrittura e della stampa hanno fatto con la parola. Allora, abbiamo detto, dopo l'invenzione della fotografia e del cinematografo, quindi nel corso, diciamo, da poco prima della metà dell'Ottocento fino alla fine dell'Ottocento, l'immagine diventa, uno, generabile tecnicamente. Cioè, esistono delle tecniche in grado di generare immagini senza più un intervento manuale, o al limite con un solo intervento manuale all'inizio e poi, quindi generabili tecnicamente. Ma caso della fotografia l'immagine si genera senza nessun intervento manuale dell'essere umano che non sia quello di azionare i dispositivi della macchina fotografica. Due, l'immagine diventa replicabile a volontà, perché una volta che ho la fotografia o il film o il cinema, posso stamparne quante copie voglio e se le stampo entro certi limiti, diciamo, perché poi si rovina anche la matrice, non è propriamente come nell'immagine elettronica analogica, il degrado è molto più rapido. C'è un certo degrado, quindi anche nell'immagine chimica, però insomma, relativamente minore, quindi diciamo che entro certi limiti posso dire che l'immagine chimica è replicabile a volontà e quindi terza caratteristica conseguenza del 2.2 è diventa trasportabile. Una volta che l'immagine diventa queste tre cose, cioè diventa riproducibile tecnicamente, replicabile in un numero tendenzialmente molto grande di esemplari e trasportabile, quindi non ha più i vincoli dello spazio e del tempo, ecco che si creano le condizioni per le quali l'immagine possa recuperare il valore comunicativo e la centralità strategica che non ha avuto per tutta l'epoca di predominio della parola parlata. Ovviamente noi siamo ancora dentro questo clima, è chiaro quindi che il predominio dell'immagine è qualcosa di molto recente, perché ha poco più di un secolo, e però in questo secolo è stato sufficiente per trasformare rapidissimamente le condizioni e da un certo punto di vista per ribaltare addirittura anche le gerarchie. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, con il cinematografo prima, la radio successivamente e la televisione pochi decenni dopo, si crea non la categoria dei mezzi di comunicazione di massa che era già stata creata all'epoca della stampa, sia pure minimamente sono i giornali, sono i periodici che sono il primo esempio di mass media, cioè di mezzo di comunicazione di massa. La massa ovviamente è sempre relativa alle non a caso la comparsa dei giornali come strumento di comunicazione dapprima politico, dapprima prevalentemente di comunicazione politica e poi di comunicazione sociale in genere, va di pari passo con un rapidissimo processo di alfabetizzazione delle popolazioni, cioè la crescita della nascita della stampa porta con sé come effetto un allargamento drastico e molto rapido del numero di persone che padroneggiano il codice della parola scritta. Questo è molto ovviamente il cambiamento più grosso è questo, non tanto il fatto che ci sia la stampa, quanto che con la stampa tendenzialmente alla maggioranza della popolazione che legge e scrive, mentre precedentemente alla stampa, all'epoca della cultura manoscritta, è un'epoca nella quale è una minoranza della popolazione che sa leggere e scrivere. Sì. Una minoranza nel senso che comunque sapevano leggere le persone che stavano bene. Sì, che coincide con una minoranza. Poi economica. Era comunque una, cioè manco tanto, cioè minoranza nei confronti del popolo, però manco tanto minoranza perché tutto il clero e le donne sapevano leggere. Va bene, va bene. Però volevo dire che mi è venuto in mente che in questo periodo, quando parlavi, che forse c'è il potere più ampio che ha avuto la stampa è stato con la pubblicazione dei giornali, più che la pubblicazione del saggetto, del libro, che tanto comunque andava sempre alla persona culta che è più. alla persona colta sì, ma se, come vi ho detto l'altra volta, i due principali campi di, diciamo, i due campi nei quali la stampa eccelle dal punto di vista delle vendite sono stati veramente due, cioè la religione con la Bibbia e la fotografia. Sono più i libri proibiti che vengono, diciamo, prodotti, che assicurano, che sono il volano per far partire molti tipografi, neanche si sarebbero messi a stampare se non fosse stata la fotografia, se non avessero avuto la prospettiva di guadagni relativamente rapidi e facili con lo smercio di opere proibite, perché evidentemente spesso erano gli stessi che, diciamo, di giorno stampavano la Bibbia e di notte stampavano i romanzi pornografici. Di notte ovviamente era una metafora, però che facevano contemporaneamente le due cose. D'altra parte la pornografia è stata quasi sempre uno dei volani di qualunque tecnologia, di nuova tecnologia espressiva, comunicativa, si sia pensata a tal delle videocassette. Anche la grande diffusione delle videocassette, che ormai sono 30 anni fa, ma che sembra il secolo scorso, perché ormai è una tecnologia desueta, però è una tecnologia che ha avuto un grande ruolo nella diffusione. E anche lì è stata la pornografia, è stato il terreno sul quale la tecnologia del VHS si è imposta a livello di consumo e ha consentito poi anche di fare, di poter stampare anche poi prodotti invece culturali delle hit, eccetera, ma sono sempre state le cassette porno vendute, anche adesso su internet, non c'è dubbio, chiunque disprezza la pornografia non tiene conto di questa di questo dato di fatto. È un folle. Soprattutto non si diverte. C'è un produttore che diceva finché non si diverte lui non c'è problema, quando vuole impedire che ci divertiamo noi. Il produttore è quello della Fandango in Italia, che diceva che tutta l'industria cinematografica si regge sul porno. Molto probabilmente sì, certo. Cioè quello che permette poi la produzione dei film d'autore. Sì, anche se ora l'industria del porno si sta rapidamente trasformando, perché di film porno se ne girano sempre meno, perché i film classici, perché ormai è più autoprodotto. Da un lato autoprodotto, dall'altro sono i siti internet, quindi sono condizioni di produzione totalmente diverse. Se voi state sul sito internet difficilmente trovate, sì, ci sono anche quelli, ma difficilmente trovate i film lunghi, i film del formato di un'ora e mezza, sono gli episodi rapidi, delle serializzazioni. È una sorta di, diciamo. Beh, però se tu ti scarichi l'ultimo film di Tarantino e magari c'è scritto che si chiama, ma anche no, cioè il nome in giapponese, e poi ti piace un film. E poi c'è il film di un'ora e un quarto che. Ma quelli io penso, cioè la mia idea su queste cose che accadono in internet, che sono quelli che scaricano i film porno per non farsi beccare molto altro nome. Per non farsi beccare? Per non farsi beccare la libreria propria del computer, mettere il nome di un film. Cioè, mi sembra la spiegazione più. No, ma comunque se. Non è una questione di hackeraggio. Secondo me è anche una forma parassita per diffondere. No, io non sono per la teoria del complotto, io sono più per la teoria personale del ragazzino. Comunque la gran parte dei quattrini oggi, il porno, non la fa più né con le videocassette, né con i DVD venduti in edicola. Le fa o con i gadget o con gli abbonamenti ai siti porno. Gli abbonamenti ai siti porno sono una quantità di quattrini enorme. E questi siti, in una maniera o nell'altra, hanno dei prodotti, offrono delle cose che non sono affatto il classico film, sono delle performance, sono robe rapide, sono video dai 5 minuti ai 10 minuti al quarto d'ora, a quello che sia, non ha il formato del film. D'altra parte, anche se guardi alle origini del cinema porno, in un'epoca in cui già il cinema industriale tende ad orientarsi verso la forma narrativa e verso lo standard dell'ora, ora e un quarto, poi ora e mezzo, dei 90 minuti, che è stato In genere il porno invece consiste, le questioni di porno sono tutte già, sono tutte ancora molto, molto più brevi, molto più schematiche, molto più. D'altra parte per il porno, siccome nel porno quello che conta è l'atto, diciamo, sessuale, e all'interno della sessuale quello che conta ancora di più è l'eiaculazione del maschio, che deve essere visibile, perché no, ci sono stati vari tentativi di introdurre l'idea dell'eiaculazione interna, ma funziona sempre poco, cioè si deve vedere, cioè lo spettatore di un porno deve vedere che esce il seme, perché sennò no, perché è l'unica cosa che lo può convincere che quello è un vero atto sessuale e non una cosa privata. Questa è la ragione per la quale l'eiaculazione avviene all'esterno, e non perché si vogliano rinverdire i fatti biblici di Onan. Allora, siccome la cosa che importa è questa, e tutto il resto, tutta la cornice narrativa, eccetera, è sempre stato per il cinema porno, è sempre stata una roba, come dire, pesante da supportare. Cioè un prezzo che bisognava pagare, perché vabbè, il film, così, eccetera, ma insomma, che due palle. C'è da vedere, fra le cose più interessanti del cinema porno, cioè le cose di Gerard, Damiano, da Gola Profonda a Bolero, sono poco più che una serie di montaggio di videoclip successivi di diversi atti sessuali, quasi sempre quelli orali, perché evidentemente Damiano nel suo caso prediligeva l'oralità. Cioè, la storia di Gola Profonda è una roba ridicola e assurda, insomma, non solo anatomicamente ma anche culturalmente, ma serve semplicemente perché questa povera Lisa Lovelace faccia una serie di 15-16 pompini nel corso del film, che sono quelli che contano, è lì che conta, devi vedere la cosa. Ancora più esplicito e più chiaro è Bolero è un film un po' più breve dello stesso regista di Varadi più tardi, in cui la colonna sonora è il Bolero di Ravel, funziona veramente alla perfezione, che con un ritmo terribile, tu hai 20 fellazio consecutive, ma senza nessuna struttura narrativa, perché lì c'è la musica che fa da conduttore, è un pezzo di musica molto noto, eccetera, eccetera. L'eiaculazione viene fatta coincidere con i picchi, con il cambio di musica, quando, e dura però 45 minuti, 40 minuti. È un film veramente interessante, no, è molto bello. No, le canzoni sono 20, 15, 20, non mi ricordo quante sono. Ma una via l'altra, ma lì proprio la storia è stata esclusa, è stata tolta perché non era più necessaria, perché non c'era più neanche quella vaga idea che ancora c'era in Gola Profonda, insomma, che comunque Gola Profonda, sapete che è quello che ha fatto uscire il cinema porno dal chiuso, è stato il primo film porno, io lo vidi a Parigi nel 75, a un cinema di Montparnasse, e c'era fuori un film normalissimo. Io e la signorina con cui stavo a Parigi in quel periodo decidemmo di andare a vederlo. Io mi divertii, lei meno, perché era un po' più moralista, però. Vabbè, ma non è così moralista. Era brutto, sì, dai, era simpatico, era questa idea. Poi tutte le volte che lei. Quando lei scopre di avere il gore, questa è l'idea di Gola Profonda, che lei su non gode, no? L'inizio è bellissimo. L'inizio è lei che torna a casa, vive con una sua amica. Torna a casa e con la spesa, quindi c'è Campolungo, un tentativo di piano di sequenza, con lei che si ferma la cosa, e intanto hai il montaggio parallelo, la sua amica seduta sul tavolo di cucina si fa leccare gli organi genitali da un aiutante giovanotto inginocchiato di fronte a lei. L'orgasmo della sua amica avviene più o meno nell'istante in cui Linda Lovelace entra in cucina con i pacchi della spesa e li posa sul counter, sul bancone della cosa. Dopodiché segue la discussione tra lei e la sua amica, perché gli dice, vai, se avete tu, non so cosa fai, se almeno se tu, beata te che te la fai leccare, e vieni, se io sopravvivo in tutti i modi, eh sì, perché cioè, discutono su questo. Discutevano, mi sembra, in inglese, perché non era neanche, mi sa, doppiato. No, beh, circolavano copie copiate, cioè doppiate. Il 75, dunque il film esce, mi sembra la prima volta che esce nel 72, vediamo. Poi non ho neanche una coppia, cioè, adesso è uscito un documentario sul making, l'idea filologica su quella che è stata la realizzazione di quella profonda, cioè quindi l'importanza sociologica, intima, morale e registica, artistica del lavoro. Adesso è vero, scusate, è mica una roba. Io mi sono visto un pezzo di fermato, prima andava avanti i pezzi. A Lumière negli anni, fra l'83 e l'84 ci fu. Ancora prima che ci fosse Ma di che anno è? 60, sono quella profonda deve essere 65-66, una rivoluzione culturale. Cioè, il film è stato il primo, tra virgolette, film pornografico con trama. Cioè, con un svolgimento. Uno dei primi con una certa trama. Ma quindi poi c'è stata un'inversione alla montagna. Il porno non ha mai avuto trama, perché non gli serve. Però ci sono stati alcuni tempi. A un certo punto, nel periodo, negli anni 60, con la metà degli anni 60, Damiano e alcuni altri registi fecero una piccola produzione che furono l'inserzione del porno come un che portò a una serie di aberrazioni, ma anche di cose interessanti, perché praticamente per una parte, la metà degli anni 70, la metà degli anni 80, non c'era successo cinematografico che non avesse la sua replica o la sua parodia nel genere porno. Ecco anche i titoli. Allora, negli anni 80 un regista italiano, che è Silvio Bandinelli, italiano di porno, si è specializzato nello Shakespeare porno, ha fatto un Macbeth porno, un Hamlet, eccetera. Macbeth poi è il titolo più pornizzato di Shakespeare, varia gente ha fatto un Macbeth, perché pensano che il Macbeth si presti molto, che non c'è il sesso nell'originale, che c'è una figura femminile, così pensava Romeo e Giulietta, in verità il Macbeth, è Macbeth, è Macbeth di più, assolutamente, diciamo, e Otello? Otello è gay. Otello mi pare meno. Romeo e Giulietta, anche lì ce n'è uno o due, ma di Macbeth ce n'è. Io ne ho visti io solo almeno 5-6. Macbeth forte. Sì, con le tre streghe sexy, tutto, ovviamente tutto giocato su questa roba qua. Le tre streghe sono tre gnocche della Madonna. Ma poi la. Ah, si fa la profezia. Ce n'è tutti colori. E la Lady Macbeth? Lady Macbeth, figura lei, e poi scopano in continuazione cose che non si capisce, però non sapevo che la storia più inflazionata fosse Biancaneve. Fosse? Biancaneve. Biancaneve più nel campo del fumetto. Sì. Il fumetto porno, Biancaneve ce n'è. Forse tra le storie più richieste della fantasia. Ah no, perché questo è un luogo comune perché tutti. Ma perché forse i sette nani. I sette nani. Certo. I sette nani, cioè l'idea della del nano, no? Grazie per avercelo precisato. Sono tutte leggende metropolitane. Hai testato? Come il caso di Andrea. Ho fatto una prova di campioni. Ma io sapevo un'altra cosa di quella profonda, tu, giusto per chiudere l'argomento. Vedo che su questa cosa. Ma da un punto di vista storico. No, siete molto. Che fu il primo film che trascinò il borghese nella sala cinematografica porno. Cioè fu il primo film a avere un successo popolare che coinvolse anche persone, tra virgolette, più rigidate negli atteggiamenti. Fino alla fine degli anni 60, i cinema a luci rosse non esistevano. Non c'erano. Il cinema porno circolava, ma in altri ambienti erano robe di... Gola profonda. da vicino. Quindi alcuni cinema cominciarono, penso, ci fu questa, e si era in pieno clima, liberazione sessuale, bla bla, la coppia aperta, una serie di parole del genere, che tanti guai hanno fatto nella psiche di noi giovani, che eravamo giovani allora. E dopodiché il successo della profonda e forse di qualche altro, non mi ricordo, perché forse ce n'era anche uno che era una specie di, c'è stato una fine di 1984, porno, sempre di Gerard Damian, dimmi? Emanuele viene una cosa dopo, viene successiva, a quel punto poi si crea, dopo che il porno, cioè il cosiddetto hardcore, sfonda e però ovviamente si deve costruire un circuito a fase di nascono in film, luci rosse, allora viene fuori questo compromesso tra il film erotico tradizionale casto e il cinema porno, che si chiama softcore. Emanuele è uno degli esempi di softcore, anche scritto. Emanuele non è, cioè, voglio dire, insomma, masturbarsi di Emanuele è un'impresa disperata, perché cioè, per 50 pagine questo parla delle sue robe, già, ma questo pensate delle robe con i buddhisti, ideologie, eccetera. Dopodiché in due pagine su 50 fa un po' di sesso, uno cerca di sfrigarsi nel nome, però due pagine sono pochine, obiettivamente. Per infatti secondo me è migliore l'incipit di Suardò. Le prime 10 pagine di Suardò, poi il resto dovrebbe sfruttare. Suardò è un altro che devi scegliere, devi stare a pensare cosa di stranissimo le faceva Sir Stephen, perché non ti racconta mai nulla di quello che le fa davvero. Ricordo diverso, la versione qui nelle prime 10 pagine era molto spinta. Perché tu è uguale a quelle 10 pagine, succede che lui la porta, lei sta in macchina, lui le taglia le bretelline del reggiseno, cioè quando la porta in quella stanza? Agua sì, no. Le prime 10 pagine sono la cronaca del trasporto di Yo da parte di René, che è suo amante, da casa sua a, diciamo, Guassi. Allora le 20 pagine dopo, quelle dei Guassi della casa. Quando entra nella sì, casa. Ecco. Ma non le fanno, perché c'è il valletto che se la scova, va bene. Insomma. Le frustate ci sono, ma pochissimo. Cioè è veramente noiosetto anche il Suardò dal punto di vista. Cioè, e comunque quello è, nasce questo genere intermedio. Emanuele viene dopo il Suardò, ed è il più intellettualistico, perché Emanuele veramente c'è la storia, c'è il sessismo, c'è altre robe. I film sono come lontano, ma anche sì, a parte che lei è una poverina che parecchio. Va bene, basta, no, non è che c'è una storia del porno. Questo anno faccio un corso sul porno. Molto più successo di molto quelli. Cazzo, molto di più. No, allora siccome abbiamo un po' di tempo, dai, due robe ancora per dire, che sennò qui veramente tratta, oggi l'abbiamo perso totalmente. Allora, perché oggi c'era un concetto nuovo, ma non l'ho ancora tirato fuori, quindi nuovo per il corso, insomma. Allora, che cosa succede con la possibilità delle immagini tecniche, cioè delle immagini generate, riprodotte e diffuse a mezzo di tecnologie? Quello che era accaduto con la parola adesso avviene con l'immagine. E quindi io ho la possibilità di vedere oggetti, persone, animali, avvenimenti, paesaggi, città, qualunque genere di cose che abbia un aspetto, diciamo, che abbia una capacità di essere messo in immagine, li posso vedere lontani dal loro luogo di origine e successivamente alle azioni di cui sono stati protagonisti, se sono esseri umani, o scenario, se sono luoghi, eccetera, nel momento in cui queste azioni avvennero. Cinema e televisione in modo diverso e con linguaggi diversi, con statuti diversi, però entrambi fanno questa operazione. Ci consentono di vedere corpi, avvenimenti e azioni lontane come se fossero vicine o passate come se fossero presenti. Non bisogna però trascurare e dimenticare che c'è un'altra tecnologia che non ha a che fare con l'immagine, ma che paradossalmente determina delle condizioni per cui anche queste tecnologie dell'immagine assumono un significato, diciamo, diverso e che è più o meno contemporanea, anzi di poco precedente a quella del cinema, e che è la tecnologia del telefono. Che cosa fa il telefono? Il telefono realizza una operazione molto ambiziosa, che tra l'altro i suoi inventori non avevano previsto. Il modello comunicativo del telefono nella mente sicuramente di Bell, forse anche di Meucci, che è lo scrittore contemporaneo, ma sicuramente di Bell e quindi di quella che poi diventerà la AT&T, che è la prima grande azienda statunitense che produce, che diciamo mette, che produce gli apparecchi per rendere, per realizzare questa scelta tecnologica. Nella mente di Bell e delle prime industrie telefoniche, il telefono non doveva essere uno strumento di comunicazione personale, doveva essere uno strumento per diffondere il suono, diciamo tendenzialmente la musica, trasportandola in luoghi lontani da quello nella quale si produceva. Era un modo per cui, per esempio, un'orchestra sinfonica che suonasse a Berlino potesse essere sentita negli Stati Uniti in tempo reale. Se togliamo il tempo reale e diamo la possibilità anche di musica in differita, il telefono nella testa dei suoi inventori era praticamente quello che dopo si è chiamato la fila di fusione, che però nella storia della tecnologia telefonica invece è stata una scelta di molto successiva. Circolano alcune leggende sul perché la tecnologia di trasmissione della voce a distanza, che avrà del suono, la tecnologia del suono anche su distanza, che è il telefono, si sia sviluppata nel modo in cui si è sviluppata e sviluppata storicamente, cioè come strumento di comunicazione personale tra le diverse persone. E sono, diciamo, leggende che riguardano, guarda caso, le mogli dei primi dirigenti della Bell, dell'azienda che aveva creato il direttore del telefono per dare questa cosa, le quali, utilizzando casualmente e in maniera non prevista e non programmata le linee telefoniche per prolungare le loro piacevoli chiacchierate vis-à-vis, diciamo, in presenza, i loro tè pomeridiani, diciamo, scoprisce, cazzo, magari che bello, si può chiacchierare, parlare, si può trattare le mie cose anche senza che io mi sposto da te o tu ti sposti da me, eccetera. E questa è veramente una, insomma, leggenda, però. E quindi questo spiega come questo servizio di comunicazione personale, inizialmente previsto come una specie di bonus, una specie di aggiunta al vero servizio telefonico, che era quello appunto di consentire l'ascolto pubblico, quindi nella testa di Bell la gente si sarebbe spostata da casa propria in una sala pubblica, mettiamo, di Filadelfia, e lì di fronte a un muro completamente vuoto avrebbe, grazie alla magica tecnica della telefonia, ascoltato il suono dell'orchestra sinfonica che stava suonando in quel momento a New York. Dicevo, che bello, non posso spostarmi a New York, però posso sentire la grande orchestra del Metropolitan di New York, la posso sentire pure qua. Questo genere di cose non ebbe alcun successo, mentre nel giro di pochissimi anni quelli che erano i servizi accessori, cioè la comunicazione personale, si imposero e diventarono i primi. E fu importante questo cambiamento, perché se il telefono si fosse sviluppato come aveva pensato Bell, cioè più come la via di radio, di fatto, no? Perché era una specie di radio che andava via filo invece che andare via etere. Certamente in parte si sarebbero delineati quadri culturali per esempio simili, ma non sarebbe stato così potente e così forte come è stato l'effetto del telefono. Perché l'effetto del telefono, più ancora dell'effetto della radio, che certamente portava, trasferiva un effetto di presenza del corpo di una o più persone al di là della portata visiva, diretta, cioè ti consentiva di sentire la voce di uno che era lontano. Ma il modello comunicativo della radio è lo stesso modello comunicativo del libro, lo stesso modello comunicativo del quadro, lo stesso modello comunicativo del cinema. Qualcuno, una piccola minoranza, un piccolo gruppo, una sola persona o un piccolo gruppo di persone producono qualcosa, un'immagine, uno scritto, una parola, e un grande numero di persone lo ascolta. Ma non c'è memoria, non c'è fissazione. Ok, non c'è memoria, però quello che il telefono cambia non è tanto, è questo. Il fatto è che il telefono realizza una situazione analoga, quindi di trasporto a distanza della voce di una persona o dei suoni prodotti in un certo ambiente, ma non lo fa con il modello comunicativo del discorso. Io parlo, solo io parlo e tanta gente ascolta. Io solo dipingo e tanta gente vede il mio quadro. Io solo scrivo un libro o un articolo e tante persone leggono quel libro. No, lo realizza con un modello comunicativo in cui una persona produce, un'altra persona ascolta e subito dopo che io ho prodotto qualcosa, che la persona lo ha ascoltato, le parti tra me e lei si scambiano e questa persona produce e io ascolto. Quindi, invece di un modello comunicativo, come si dice, uno a molti, o come dice Flusser, il modello del discorso unidirezionale, abbiamo un modello comunicativo molti a molti, interattivo o, se volete, un modello di rete. Il telefono è la prima esperienza di una rete in cui i nodi della rete non hanno una differenziazione gerarchica, cioè c'è un vertice, c'è un nodo privilegiato che è l'emittente e tanti altri nodi che sono i riceventi e i ruoli non si possono scambiare, né nella radio né nella televisione. Cioè, ovviamente il modello della radio, una volta che il telefono è dove delle cose, voi sapete che negli ultimi tempi si è cambiato, però ha dovuto ibridarsi con un'altra tecnologia, quella del telefono, per fare in modo che almeno parzialmente una parte parte anche la televisione. E Raffaella Carrà, come tutti sapete, in Italia fu quella che inaugurò in modo sciagurato, possono pensare alcuni, ma di fatto fu lei che inaugurò questa idea per cui anche il telespettatore potesse illusoriamente cambiare ruolo e diventare anche egli emittente di un messaggio. Sentiva soltanto di dire quanti erano i fagioli del famoso vaso, ma insomma in qualche maniera era un modo per rendere il telespettatore più o meno partecipe. Ma il telefono ha sempre Questa quindi è la prima, diciamo, innovazione grande prodotta dal telefono. È la prima volta che una tecnologia di comunicazione generale e generalizzata adotta un modello a rete invece che a, diciamo, discorso, multidirezionale invece che unidirezionale, molti a molti invece che uno a molti. Ma non solo, e qui viene l'intreccio poi, al di là e prima ancora di Raffaella Carrà o diciamo dell'interattività, qui viene l'intreccio fra telefono, radio e, diciamo, televisione. Quello che il telefono realizza, quello che assicura, è di consentire un effetto simile a quello della parola scritta, simile a quello che la scrittura e poi la stampa hanno realizzato con la parola scritta, ma nel campo della parola parlata. La parola aveva vinto, era stata in grado di vincere il vincolo dello spazio e del tempo, ma grazie ad un fenomeno di terribile astrazione e di terribile disincarnazione. La parola parlata aveva dovuto disincarnarsi per poter vincere lo spazio e il tempo, trasformandosi in questi oggetti inanimati e di cui giustamente Platone dice nel Fedro: voi interrogate le parole scritte, ma esse sono mute, esse non vi rispondono. Con tutta la retorica poi di quello, no, non è vero, rispondo, ci devo cazzo a cazzo, le faccio rispondere io nella mia testa, io posso fare dei dialoghi immaginari, ma qua c'è scritto astrarre significa detrarre, e nessuno mai potrà far dire a Wilhelm Flusser una frase diversa da astrarre significa detrarre. Posso fare tutte le seghe mentali che voglio, ma qui c'è scritto astrarre significa detrarre, punto e basta. Io gli chiedo che cazzo vuol dire e Flusser non mi risponde, mi fa marameo. E io non sento la voce di Flusser, non vedo le mani di Flusser che gesticolano, non vedo gli occhi di Flusser infiammati, non vedo il naso di Flusser che vibra per l'eccitazione di ciò che dice. Meglio, dite voi, non lo so, non ho mai visto di Flusser, quindi vuole che sia meglio, vuole che sia meglio. Ho fatto sta, tutte queste cose non le vedo. Se voi leggete i libri di Caronia, avete un'esperienza che è diversa da quella di sentire Caronia che parla, per voi preferite leggere i libri, e lo so, ma vabbè. Il telefono cosa fa? Il telefono mi dà la stessa cosa, analoga a quella della parola, perché diffonde, io parlo con Caronia, ma mi dà insieme, perlomeno, non vedrò gli occhi di Caronia, non vedrò la mano che sigla, ma perlomeno sento le intonazioni. Per quanto riguarda la produzione sonora, è una quantità di informazione maggiore. E una quantità di informazione maggiore, che cosa vuol dire? Che un effetto di realtà del corpo dell'emittente, del messaggio, passa attraverso il telefono. Ecco perché ho sostenuto nei miei libri che il telefono è il primo vero esempio di corpo virtuale o di corpo disseminato. È la prima volta che io ho la capacità di entrare in contatto con un corpo vero, con un corpo reale. Non è il corpo in carne e ossa, è un effetto del corpo, ma è quanto di più vicino, nel caso della comunicazione, ci sia ad un corpo, e cioè la voce. Certo. Allora, avere questo trasporto, questa trasformazione della voce, praticamente il telefono è il telefono che inaugura l'era dei corpi virtuali. È la prima volta che i corpi possono permettersi il lusso, diciamo, o possono permettersi di, possono, diciamo, realizzare, possono vincere i vincoli dello spazio e del tempo, senza dover passare attraverso le forche caudine dell'astrazione. L'astrazione significa, nel caso della parola parlata, la trasformazione, la fissazione dei suoni, delle catene fonetiche, delle catene fonematiche, dei sintagmi fonetici in strisce, in catene grafiche, in righe di cose, questa nel caso. Nel caso dell'immagine c'è un lavoro analogo, anche nell'immagine c'è un lavoro di astrazione sul corpo reale, che è la fissazione dell'impressione visiva del corpo reale su di un supporto materiale. Per una lunga fase, largamente il carattere astratto del quadro, del dipinto, è stata la necessità per lo spettatore del quadro di integrare con un lavoro di aggiunta e di commento, di ermeneutica in qualche modo, di integrare nella situazione statica del quadro una sorta di dinamismo o di temporalità. Naturalmente questo era sempre dovuto al fatto che esplicitamente o implicitamente il soggetto del quadro fosse qualcosa di vagamente familiare allo spettatore, o perché era una scena biblica, o perché era la faccia di un santo, o perché era una scena di qualcosa di cui lo spettatore aveva esperienza nella vita, per esempio, reale. Tutti noi facciamo così. Il quadro è nel la prospettiva quadro, che poi è stata quella a compiere il maggior grado di astrazione. Ma questo c'è anche prima della prospettiva, anche Giotto, anche il mosaico bizantino in maniera più, diciamo, limitata, ma entro certi limiti. Certamente, è stata concepita sicuramente, non in realtà, sicuramente Roberta, certo. La prospettiva aggiunge degli strumenti con i quali tu puoi fare questo lavoro, però questo lavoro è inerente all'immagine statica. Ogni volta che noi vediamo, ma è la stessa roba che noi facciamo con la fotografia, uguale, identica. Ogni volta che vediamo una immagine statica, costruiamo inconsapevolmente un prima e un dopo di quell'immagine. Sappiamo vagamente che cosa è successo prima, e una delle, come dire, i più bravi fotografi sono quelli che riescono con lo scatto e con la fissazione di quell'istante assolutamente artificiale che nessuno di noi è stato in grado di vedere nella vita, nel flusso continuo dell'immagine, è in grado meglio di altri di suggerire o di integrare il prima, quello che è successo prima, quello che cosa ha portato a quell'immagine. Quando voi vedete, abbiamo preso Giuditta, andiamo avanti con la Giuditta, quando voi vedete Giuditta tutta contenta, con le vesti discinte, la daga nella mano destra e la testa di Oloferne tenuto per i capelli che pende dalla mano sinistra, sapete, perché l'avete letto sulla Bibbia o ve l'ha raccontato il prete, che cosa è successo prima. E quindi in qualche maniera vi immaginatele e sapete anche vagamente quello che succederà dopo. Sapete che dopo questo gesto gli eserciti ebraici e giudei prenderanno l'assalto, okay? Quindi eccetera, eccetera, eccetera. Quindi avete, quando vedete una città in fiamme sullo sfondo, un uomo anziano che cammina lontano da questa città, due donne dietro a lui, la terza donna ancora dietro, disgraziata, che si volta, sapete che che l'uomo si chiama Lot, che la città si chiama Sodoma, che le due bambine sono le figlie di Lot e che la scema che si volta dietro è la moglie di Lot, che si fermerà, voi sapete quello che è successo prima, sapete chi erano i Sodomiti, i brutti disgraziati, sapete che è stato Geova incazzatissimo che gli ha buttato giù tutti i cubinetti per incendiarla, quindi sapete anche quello che succederà dopo, perché sapete che avendo detto Dio a Lot di non voltarsi indietro, perché si volterà adesso, sapete che la moglie di Lot, cretinetta che si volta, verrà trasformata, sapete tutto in cosa? In una statua di sale, questa è la storia della Bibbia. Allora, anche lì quindi, quel quadro vi dice il prima e vi dice il dopo. Quando guardate una foto di Diane Arbus, di questi straordinario, terribili a volte, freaks newyorkesi, eccetera, avete una, ogni volta che vedete la donna grassa e sfatta, vi fate una qualche idea di cosa può aver portato quella donna a diventare, diciamo così, che cosa aveva potuto essere prima, cosa le è successo, cioè vi costruite in qualche maniera una storia, dovete fare, quindi è un lavoro di astrazione fortissimo, terribile che voi fate sull'immagine. Il cinematografo, cioè la trasformazione della fotografia in immagine e in movimento, riproduce la stessa cosa naturalmente, ma da un altro punto di vista, ma azzera questo genere di diciamo, lavoro ermeneutico. Non dovete più fare l'ermeneutica di quello che ho detto prima, perché la storia si svolge sotto i vostri occhi, non vedete più Stanlio e Onlio in posa così, li vedete muoversi davvero, grasso e magro, ridete come dei pazzi per le cazzate che fanno, non dovete inventare, non dovete pensare chissà cosa hanno fatto per stare uno buttato per terra e l'altro così, vedete davvero le cose che fanno. In realtà rimane ovviamente un lavoro di astrazione anche nel cinema, perché ovviamente l'altra cosa che non ho detto è che sia nel quadro sia nella fotografia, oltre a quello che è successo prima e dopo, voi vi immaginate anche un'altra cosa, vi immaginate o avete una vaga idea, e cioè quello che succede al di fuori di quella finestrina che è stata ritagliata nella realtà, per questo che nel quadro, nella fotografia, sono la realtà. Non so, magari un'osservazione fino a se stessa, però mi viene in mente, se uno... In un quadro c'è comunque una storia, c'è un racconto, anche se si presuppone, perché congelato, comunque, sì. Diciamo, l'occhio non è fisso, non riesce a leggere tutte le immagini, tutti i dati che sono presenti, no. Ma viaggia continuamente. Beh, prima dà un colpo d'occhio e coglie la cosa generale, poi si mette a percorrere e comunque, il quadro. Diciamo che, mi fa pensare che potrebbe essere semplicemente un metodo di lettura differente da quello che è quello di un testo scritto. Ha altre certo regole, perché certo la storia certo, può essere certo. Anche presente lì. Lei dice sono quadri religiosi e sono leggibili per chi conosce la storia. Certo, come certo. Le nostre fotografie sono leggibili a noi perché certo. con il cinema dice. Comunque resta il fatto che vengono utilizzate le stesse regole, chiamiamole sintattiche, mm-hmm. che vengono usate per la pittura anche nel cinema, perché okay, comunque cioè non devono esserci elementi estranei a quello che è il racconto. Comunque o se tu li metti, acquistano di per sé un certo valore. Guardi i film di Buñuel, esatto, in cui ogni tanto è tutto quello che è presente. L'inizio dell'Age d'Oro in cui hai l'accostamento di un afro che sbatte su una riva, due scorpioni che si combattono e tu non sai mai qual è la pertinenza di quell'insieme di immagini, certo. Inizia a perdere l'immagine, cioè non è che inizia ad acquistare un valore che è più quello trasposto in quello della voce o della parola, anche sul supporto elettronico. Il personaggio e quindi il mio focus si muove sul personaggio perché tutto l'ambiente magari si va bene, ma questo Angela, questo è giusto, ma questi sono già cambia questa è già un'analisi delle differenti strategie con le quali l'occhio e il cervello entrano in relazione con immagini di questo tipo. Quello che volevo dire era che, però adesso molto in generale, era che l'avvento del cinema, cioè dell'immagine in movimento, non elimina totalmente, ma cambia fortemente i processi di diciamo concretizzazione o di rapporto fra l'astratto e il concreto che l'immagine fissa precedente aveva introdotto nella storia della cultura occidentale. Perché, per esempio, dal punto di vista della diacronia, cioè dal punto di vista di ciò che precede, di ciò che precedeva quella certa immagine, certo che c'è una storia implicita in ogni quadro, in ogni fotografia, ma è appunto compito dell'ermeneutica, di chi guarda, diciamo, interpolare, aggiungere, completare, spiegare come la storia implicita, la storicità implicita in quell'immagine abbia portato a quell'immagine. Questa necessità col cinema scompare, perché il cinema e poi la televisione ti danno esattamente la storia, ti danno esattamente la situazione che ha portato a quell'immagine. Pensa a vi facevo l'esempio di un fotogramma, prendi un qualunque film comico, isola il fotogramma in cui l'attore o gli attori ti fanno più ridere, perché stanno col culo per terra, perché si vede con l'impresa disperata. Tu probabilmente ridi anche a vedere quel solo quadro e quel solo fotogramma, ma se tu avessi visto solo questo avresti dovuto ricostruire tu più o meno logicamente o più o meno in correlazione con quell'immagine fissa quello che era successo, per cui quell'immagine. Col cinema no, perché il cinema? Dicevo, questo significa che il cinema elimina totalmente il procedimento dell'astrazione? No, perché oltre all'aspetto storico che è implicito nel quadro o nella foto e quindi astratto e quindi è un carattere di astrazione, c'è un altro genere, un altro procedimento astrattivo che il cinema non può cambiare, non può alterare, mentre può farlo la scultura o l'architettura, e cioè l'esistenza del frame, della cornice, del quadro. Il quadro e la fotografia, oltre a fissare, oltre a fare un freezing, una fissazione di un improbabile e inesistente istante del tempo in quello che dicono, che fanno anche un'altra immagine, ritagliano all'interno della realtà un quadro, una finestra da cui guardare. Quindi c'è un ulteriore elemento di lavoro nell'ermeneutica dello spettatore, che è quello di completare ciò che sta fuori dal quadro, di supporre, di sapere come quello che viene rappresentato in quel quadro si completa, quali sono le possibili linee che escono dalla cornice del quadro e vanno fuori a prendere la, diciamo, realtà. Lavoro, ripeto, che non deve fare chi guarda una statua o chi guarda un palazzo, perché quelli sono già elementi tridimensionali. Fammi solo finire, poi arrivo a te. La stessa cosa col cinema, il cinema non lo cambia questo, perché il cinema continua a mantenere la... Esattamente la stessa differenza che c'è tra il guardare un film e il leggere un fumetto. È la stessa roba. Allora, è chiaro, ci arrivo, anzi, te lo completo, che il carattere astratto dell'immagine fissa fosse sentito come un limite dai suoi autori, lo dimostra nel caso della pittura esattamente l'esempio che ha fatto adesso Roberta, cioè che molta della pittura tentava di integrare, di forzare, di dotarsi di una dimensione storica che di per sé non possiede, con questo espediente, con questo escamotage, di costruire, di fare tante immagini una dietro l'altra che rappresentassero lo svolgersi cronologico, storico di una certa situazione. Qualsiasi predella d'altare in genere è fatta certo, così, o tre o cinque. E uno scopo narrativo doveva raccontare questa cosa. Nel cinema da che cosa è dimostrato? Dai tentativi ricorrenti, sempre falliti, ma chissà come mai sempre ricorrenti, di uscire, di sfondare i limiti dello schermo. Perché ci si è dannati a cercare il cinerama, il cinema totale, il sensor round, l'IMAX, andate alla Villette di Parigi o in qualche dopo guardate questi grandi schermi, cioè qualcosa che ti avvolga, qualcosa entro cui tu entri dentro, è il fascino della realtà virtuale, è il fascino delle chiese affrescate. La Cappella di Santa Sistina, anche se è bidimensionale, piatta, è una parete, però il fatto che sia una parete così grande in qualche maniera ti dà la sede di immergerti. Quindi l'unica arte realmente immersiva che noi conosciamo è l'architettura, cioè degli, la forma di certi edifici, noi ci immergiamo dentro, noi siamo immersi dentro, non è che siamo granché l'architettura dello Zappa, ma è sempre un'architettura pure questa. Le altre arti hanno sempre invidiato, e la pittura in particolare ha sempre invidiato, e il cinema poi uguale, hanno invidiato all'architettura questa possibilità che dà al partecipante di immergersi, e quindi hanno cercato in qualche maniera di simularla. La pittura con l'espediente delle immagini successive, che poi hanno dato luogo a una forma d'arte popolare che è il fumetto. Non è un caso che il fumetto nasce più o meno contemporaneamente al cinema, più o meno. Yellow Kid, 1893-92, qualche appena due anni prima del coso dei Fratelli Lumière. Il cinema con il tentativo continuo di creare formati di una immagine che non sia confinata nel frame dello schermo, come il quadro e come la fotografia, ma che si allarghi sino ad abbracciare un intero spazio o cilindrico, come era il Cinerama, attraverso una serie di trucchi, no? si vedono le scene con diverse macchine da presa, poi si proiettano con dei sistemi di sincronizzazione, il cinema totale, sino a che poi con le tecnologie dell'informatica lo hanno reso possibile, ecco le realtà virtuali immersive. Mi metto il casco, vado e mi trovo circondato da una realtà come è la vera, come è la realtà effettiva, concreta, fisica nella quale io mi trovo tutti i giorni. Il cinema in digitale, puntando su tutta questa nitidezza, okay, e evidentemente si va tutto in questo senso. Allora però rifaccio un passo indietro, perché il concetto fondamentale che volevo dire era comunque questo. Se voi mettete insieme questo primo tentativo, questa prima esperienza di disseminazione del corpo nelle reti attraverso la voce, non è il corpo fisico carnale, ma è l'effetto più immediato, quindi la voce. Vedete insieme quindi il telefono come prima come prima tecnologia di disseminazione del corpo, i tentativi di pittura e cinema di superare, di trascendere la limitatezza dello schermo, ma anche il tentativo di rendere sempre più realistica e sempre più fruibile l'immagine, ci portano a dire che in questa costellazione di tecnologie tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, aggiungiamo la radio, a prescindere dai modelli di comunicazione, che sono diversissimi tra loro, però portano tutti alla formazione, configurano una situazione nella quale si offrono al corpo delle possibilità di virtualizzazione, cioè di trasportare, se non la propria presenza, alcuni effetti della realtà, della presenza del corpo stesso, al di là dei limiti fisici di spazio e tempo. Quindi questa, l'insieme delle tecnologie dell'immagine che nascono tra fine 800 e primi del 900, primi vuol dire anche i primi diversi decenni del Novecento, quindi configurano un inizio di processo di virtualizzazione del corpo, che sarebbe quindi sbagliato vedere questo processo di virtualizzazione come generato o iniziato con l'avvento dell'informatica. È cominciato già da prima. L'informatica e le tecniche digitali danno degli strumenti, dei modi, delle modalità di creazione di questo corpo di virtuale molto più forti, molto più immediate. Però in realtà il processo è cominciato già prima, ed è esattamente è un processo analogo a quello che ha portato dalla parola parlata alla scrittura e se però vincendo, cioè superando però i fortissimi limiti di astrazione, quindi di perdita di informazione che la scrittura aveva introdotto come prezzo da pagare per trascendere i limiti dello spazio e del tempo. Anche i processi di virtualizzazione del corpo tendono a trascendere i vincoli di spazio e tempo in cui il corpo è racchiuso, ma tendono a farlo senza pagare o pagando dei prezzi molto minori all'astrazione. Ancora una volta, significa questo che l'astrazione, i processi di astrazione hanno perso importanza nei processi di virtualizzazione del corpo? Ovviamente no. Dove si è spostata l'astrazione? Si è spostata sempre più a monte, sempre più lontana dai suoi effetti. Si è spostata nei processi concreti di creazione, di scrittura del software e di costruzione dell'hardware necessari per realizzare questa virtualizzazione. Perché se non ho dei programmi abbastanza potenti e delle macchine su cui fare questi programmi abbastanza potenti, non posso avere questi effetti. E quindi l'astrazione in qualche maniera c'è sempre, la potenza di un codice, di un linguaggio, nel senso dei principi logici di funzionamento del linguaggio c'è sempre. Soltanto che mentre per tutta l'epoca della scrittura questo codice è molto più vicino al suo risultato, al suo prodotto, lo scritto appunto, con l'epoca del corpo virtuale, quando si comincia a virtualizzare non solo il corpo, non solo le narrazioni, le storie, eccetera, ma il corpo stesso, perché questo fa la scrittura, è chiaro che la forza dell'astrazione si allontana dal proprio effetto, si sposta sempre più a monte invece che a valle. No, mi chiedevo se... se da una parte, come dicevo, c'è sta l'immagine del cinema che comunque ha una cornice intorno e non restituisce una tridimensionalità, un'immersività nell'ambiente. Dall'altra parte c'è il telefono che comunque è una voce viaggia certo. Nello spazio, però contiene ed è figlia della scrittura, quindi anche di quella trasmissione che interiorizza. E quindi passa dall'emittente al ricevente, eccetera, eccetera. Sì. In uno stato un po' più inconscio, perché non avendo direttamente la persona fisica davanti, ha un altro effetto. Se queste due cose insieme, come dice lei, permettono di viaggiare e di far viaggiare il corpo, magari non lo... frammentandolo in questa maniera, non si rischia che ciò che viaggia non è più la realtà, ma è semplicemente un'illusione. Ma non c'è dubbio, ma certo. Una falsificazione, ma del messaggio stesso insieme alla... Ma esattamente nel modo in cui la scrittura è una falsificazione o un impoverimento della parola parlata. Cioè questo effetto già... lo ha prodotto la scrittura. La scrittura anche fa una cosa di questo tipo. La scrittura tradisce il linguaggio, la scrittura non ti dice tutto quello che ti dice la parola, ti dice molto meno. E ti dice, attenzione però, lo dice ad un livello astratto. La scrittura nel momento, cioè proprio perché è fatta così, prescinde da tutto ciò che del messaggio non sia un puro contenuto intellettuale, anche un romanzo. Quando tu devi descrivere sensazioni, sentimenti, eccetera, ma li descrivi, non li vivi, non vedi gli effetti sul corpo del tuo, te li devi immaginare, quindi c'è una astrazione. Pur con tutto quello che tu dici, cioè che c'è una frammentazione, eccetera, eccetera, l'importanza dei processi di virtualizzazione del corpo stanno nel fatto che questi processi abbandonano il terreno dell'astrazione dal punto di vista dell'effetto comunicativo. L'effetto comunicativo è un effetto immediato. Se tu senti la mia voce per telefono, senti la mia voce, non leggi delle cose che io scrivo, non leggi la trascrizione di ciò che io ho detto, senti la mia voce reale. Non vedi il mio corpo, non lo senti, non mi puoi toccare e non mi puoi vedere, però almeno l'effetto della voce lo senti, sei su un piano meno astratto da un certo punto di vista dell'altro. In cambio è, come dire, scisso, certo, c'è una frammentazione, questo è vero, però il processo va nel senso di una... Allora, io mi stavo prima chiedendo, vuol dire questo che l'astrazione scompare? No, semplicemente l'astrazione scompare dalla mia prestazione, perché tu senti la mia voce reale per telefono. E perché lo senti? Perché dietro c'è un livello di astrazione che si è incarnato nella costruzione di quella tecnologia. L'astrazione sta nell'idea di Meucci di come si faceva il telefono, eccetera, o nelle tecniche oggi, per esempio, digitali, per avere questa cosa. Eccola dov'è, diciamo, l'astrazione. È un'astrazione che va sempre più indietro, si sposta sempre di più sulla predisposizione degli apparati tecnici in grado di fare questa operazione di virtualizzazione, che certamente non può essere di sostituzione, questo è ovvio, e quindi ha tutte le altre cose che tu dici. Però io adesso in questo momento non mi preoccupavo tanto di queste cose, che comunque ci sono, quanto di stabilire una linea generale, capito, di questa... Roberta, vuoi dire qualcosa tu? Finito.